E allora ci siamo adesso, Sin. Osh, fai i controlli giusto per il cambio. E poi finalmente, ringraziando ancora Piero Rota, capitano della Atleti Brighella, è stato veramente un momento bellissimo. Siamo pronti anche per il primo showcase, mini showcase, 2-3 canzoni, poi 2 domande, poi presentiamo comunque il nuovo lavoro. Non ti preoccupare che poi alziamo tutto, che ci frega. Siamo pronti allora? Che facciamo? Tu sei pronto? Siamo pronti? Siamo tutti pronti? Primo showcase della storia di Pirate Radio in diretta dal Brancaleone. Jimbo! Una sirena, non c'avevo una sirena. Oh. Eccomi, buonasera a tutti, ringrazio i ragazzi, Branca, l'ospitalità, posto bellissimo, tanti ricordi, insomma c'è un po' di emozione stasera, Risuona nell'alba un canto continuo. Cerco un avvio, guardando nel buio, inoltre ogni passo più in là. Ecco un punto tangibile, credo in te. Confuso dal calore della mia terra e che ormai è lontana, non aliena il cuore. Mi porto un po' con me nella mia mano. Dolce contenuto e passo al passo, cammino lento, calamitato da un istinto profondo, ti stringo al petto, mi batte il cuore, non credo sai di poter vivere altrove. E passo al passo, cammino lento, calamitato da un istinto profondo, e il tuo profumo ora mi avvolge, blandisce i sensi, mi coinvolge. Oh na na na na yeah. Risuona nell'alba un canto continuo, sobria essenza di vitalità. Ecco ad un sogno più volte vissuto e mai svanito. Credo di poter continuare ora il suono, non so come, l'agilità, la sua pulsione, e gira in testa e non mente. Oh nice, armonia di sempre. Passo al passo, cammino lento, calamitato da un istinto profondo, il tuo profumo ora mi avvolge, blandisce i sensi, mi coinvolge. Oh na na na na day. Grazie. Questo era Passo al passo, live and direct, Brancaleone. Che bomba, Jimbo! Grazie, come primo pezzo della storia proprio, cioè dei live showcase qua, siamo partiti alla grande. In realtà non lo so, che vogliamo fare? Ti faccio due domande, vuoi andare diretto con le canzoni? Vuoi due domande? No, due domande. Due domande le facciamo. Ci salutiamo, ci facciamo. Due domande le facciamo. Allora, me le ero pure preparate da casa, però appunto adesso non riesco. In realtà siamo qua stasera per presentare... un lavoro che è stato preparato un po' di anni fa, però in un posto particolare. Sì. Allora, innanzitutto il lavoro è Jimbo e Sailed in Vain. E il primo pezzo che ho fatto, non a caso, era un singolo uscito per Sailed in Vain, un mio brano, che si intitola Passo al Passo, del quale sempre ringraziamo Red Golden Green, che era l'etichetta in quel momento. Assolutamente, anche perché amici, appunto, stasera siamo qua proprio per la collaborazione che c'è sta appunto tra questa trasmissione, questa radio, Federico, Emiliano, insomma. Tanta, e quindi mi faceva piacere roba. Iniziare con poi anche quel grande lì. Onda però ho visto sul comunicato, sì. Quindi ringraziamo e salutiamo pure Tommaso, sì, che già che persone che si impegnano per far venire fuori la musica è sempre, insomma, c'è sempre da ringraziare, ecco, questa è una cosa importante, così come questo posto, perché io adesso suonando live qui chiudevo gli occhi, no, e mi ricordavo quando il reggae era una cosa, era un'onda fatta da persone e non c'era poi, cioè veramente i live reggae erano un'onda, non c'era un flusso, no, una fluidità proprio nel in questo contesto, come poi in tutti. Abbiamo vissuto un bel periodo, però non dobbiamo essere nostalgici, tornerà, insomma, la vita è ciclica, quindi ce la faremo. Poi appunto questa sera siamo in diretta dal Brancaleone, stiamo facendo le prove tecniche, speriamo prima o poi di riuscire ad aprirlo anche al pubblico, anche in occasione di situazioni come queste. Quindi con una persona che viene, un artista che viene, in questo caso è Jimbo, che ancora ringraziamo, viene qua, la chitarra, si mette a suonare. Chiudiamo tutti gli occhi e altro che onda. Ce ne fai un'altra, già che ci siamo? Ve ne faccio un'altra, sempre del periodo di Sailed in Vain, perché questa sera mi fa piacere, anche se non ci sono fisicamente, saluto Shiny D, che insieme con me e Pietro Sinatra eravamo, insomma, siamo tuttora, portiamo, insomma, la nostra storia di Sailed in Vain, delle nostre esperienze dei live con Trojan, Max Romeo, insomma, abbiamo fatto tante belle cose e in ultimo siamo andati a Londra, baciati dalla fortuna, e siamo andati nel tempio della musica mondiale, dove tutta la musica mondiale è entrata. Bravissimo lì. Perché questa era la domanda di prima, poi però ci sono ritornato, hai visto, ci sono ritornato. Ammazza, oh, sei un professionista davvero. Ci sono ritornato, grazie, ma grazie. Era il tuo sguardo che mi ha portato a differenza nostra, sei un professionista. No, alla fine ho ricordato che cosa stavamo dicendo, perché ho riaperto gli occhi e ecco, sto al Branca. E quindi mi aveva fatto la domanda, no? E quindi niente, dentro Abbey Road Institute, che è praticamente una struttura che è all'interno di Abbey Road Studios, abbiamo avuto la possibilità di registrare, di sperimentare, insomma, un suono che poi nel tempo è stato sviluppato. E vabbè, non ti dico stare là dentro, ho mille foto, ne ho pubblicate pochissime, ma perché, insomma, poi le cose, i ricordi belli bisogna pure tenerseli un po', no? Quindi ci tenevo a far uscire questo lavoro, così come ci teneva Shiny, i producer, insomma, che ci hanno lavorato. Però è un lavoro intimo in qualche modo, quindi poi dopo ascolteremo i brani riscritti in italiano, perché avevano dei testi in inglese, ci siamo voluti dedicare, insomma, il fatto di far incontrare due mondi, quello del reggae e quello del folk, perché io con Jimbo comunque porto il cantautorato e lo contamino un po' con la musica che vedo nel mondo, quindi quello che ho fatto, da quello che suono da 25 anni, che è reggae, ma che vado verso il latin, verso, insomma, non ci sono frontiere, perché a noi la musica ci piace libera diffusione, no? Appunto, quindi il tuo EP precedente spaziava molto tra varie cose, bellissimo, lì ci sono molte influenze, presentato poi anche lì da professionisti un po' meglio di noi, diciamo, sulla Rai un po' meglio, ma guarda, meglio, non dico migliore, secondo un me po' meglio, se il mezzo arriva alle persone, cioè tutte le cose sono uguali, magari sono diverse come potenziale, però la capacità poi di catturare l'attenzione, se questa sera, come sono certo, ci saranno amiche e amici che sono, come dire, appassionati, no, di questa trasmissione, di questo posto, ma anche un po' della musica che propongo, perché poi, cioè, magari l'hanno saputo e quindi stanno qui ad ascoltare. Ecco, la cosa bella è che questo mezzo, che è il mezzo più bello, che è la radio, ti permette di fare cose, lo dicono tutti, no? Faccio una cosa, però ascolto. Speriamo che questa sera li stiamo accompagnando, facendoli anche un po' sognare. Potrei raccontare tante cose della Londra, di Abbey Road, Maida Vale, le esperienze, Brixton, ho visto dei concerti spontanei di musicisti mondiali di 80 anni, mi sono pure emozionato e credo che sono cose che ti segnano. Quindi la cosa incredibile è farsi contaminare, viaggiamo, spostiamoci, riportiamo tutto a casa, e stasera lo stiamo un po' facendo. Quanto mi manca Londra, Jimbo, dai, andiamo con un po' di musica, va, che sennò poi se commuoviamo tutti quanti non è l'obiettivo della sera, non è l'obiettivo della sera. No, però con i lusciconi ci arriviamo sicuro. Damogli forte, Jimbo Music Live, e questo è Smile. There's over a smile with wonder among us on summer even set. On summer even set, bandit, so beautiful. Brightest dawn, brightest dawn. We gather it up. We gather it up, hey, with the memories of the childhood. We cheated it up, hey, with the memories of the childhood. We cheated it up, hey, with the memories of the childhood. We cheated it up, hey, with the memories of the childhood. Anyone to set to open your lips. Now it's yours, now it's yours. Use it to squander it. Memories of the childhood, we cheated it up, hey, hey. With the memories of the childhood, we cheated it up, hey, hey. With the memories of the childhood, we cheated it up, hey, hey. With the memories of the childhood. Grazie. E ritorniamo in diretta. Questo era un altro pezzo del nostro ospite Jimbo, che ringraziamo ancora una volta. Abbiamo anche un ospite che ci ha portato, ma non, tra poco sveleremo il nome. Non sveliamo. Infatti non si spoilera. No spoiler. Nel frattempo il nostro amico Otello è ritornato anche lui qui. Appunto, che stava con l'ospite non spoilerabile. E niente, andiamo con le domande a Jimbo. Con la domanda a Jimbo. Ma in realtà più che domande vere e proprie, no? Perché se vuoi te faccio tipo le solite: come nasce la collaborazione con Red Golden Green, i prossimi progetti e cose. In realtà, visto che un po' di tempo ce l'abbiamo, perché comunque è presto, torniamo sugli Abbey Road Studios Londra, perché ti appunto vedo curioso. Ma cazzarola, ma credo che sia pure una cosa interessante. Porca vacca, se siete andati a registrare anche insieme appunto a Shiny, che salutiamo stasera, sarebbe voluto essere qua, ma manco al telefono siamo riusciti a sentirci, perché purtroppo sta al lavoro, sta incastrato e lo fanno. Io so 4 puntate che salto per lo stesso motivo, quindi anzi saluto, un bentornato a tutti i miei ascoltatori. Però cioè sì, so curioso e penso che sia interessantissimo, cioè è un tempio della musica, è un posto sacro, è come boh, cioè, Beh, noi ci siamo trovati lì per un amico che è un fonico che in quel momento stava lavorando in Abbey Road, che è Francesco Vudorti. Grazie a lui, grazie al... Poi dopo ti racconterò una cosa di Francesco Vudorti, grande okay. fonico, ma insomma ci conosciamo da quando ancora andavo a scuola. Perfetto. Figurati. Devo dire che c'è stato questo, no, questo incontro astrale, diciamo, che ci ha portato lì. E quando siamo arrivati eravamo i classici italiani che salivano i 12 scalini di Abbey Road. Non so se i classici italiani esistono che salgono gli scalini di Abbey Road. Esistono i classici romani che ne salgono 3 dei scalini. Però diciamo che è una zona abbastanza interdetta. Al massimo puoi passare in Abbey Road dove stanno le strisce famose, tutti si fermano, gli automobilisti sono molto pazienti e tu fai lì, alzi il piede, togli le scarpe, dice voglio fare McCartney, voglio fare John Lennon, e stai così. Noi invece stavamo proprio dentro, quindi quando entriamo ci guardano tutti gli altri, ma che succede, no? Arriva questa comitiva di musicisti, che succede, chi sono, magari il figlio, il nipote di, invece no, eravamo semplicemente persone che si erano ritrovate lì a sperimentare. Ecco, noi abbiamo sperimentato un suono con tutti i fonici, insomma, che c'erano, e facevamo un po' da cavia in questo senso, però ci siamo divertiti tantissimo. È stato anche molto faticoso perché siamo stati 4-5 giorni lì, e all'inizio quindi c'era un po' di diffidenza, no? Poi l'ultimo giorno pranzo all'interno di Abbey Road, c'è il ristorante, insomma è una cosa incredibile dove ci sono veramente tu puoi incrociare artisti mondiali. Stai al tavolino e così, e non credi che questa cosa si sia potuta realizzare. Diciamo che questo è, a posteriori, erano dei ricordi che non potevo tenere per me, quindi attraverso le canzoni che stiamo per ascoltare in qualche modo l'ho recuperati. Poi ovviamente non mi sono messo a sbandierare chissà che cosa, forse non se lo merita neanche questo tipo di lavoro, non per la qualità, ma per il fatto che, come ho detto prima, i ricordi uno se li deve tenere anche un po' per sé, e poi non dobbiamo creare un motivo se non quello primario, che è la musica. E infatti anche nei social ho ottenuto un profilo abbastanza limitato, dicendo, raccontando qualche cosa. Chi l'ha voluto seguire forse ha capito, però in qualche modo li ho portati verso un ascolto, ho portato le persone verso un ascolto. Poi da quell'ascolto può nascere anche un racconto. Se le persone si incuriosiscono possono vedere dalle prossime, da questa intervista, come stiamo dimostrando, a tutte quelle che seguiranno, ci saranno dei racconti, e quindi piano piano si possono avvicinare a quel mondo lì. Però per me la prima cosa è deve parlare la musica. Grande, cioè appunto io mi acquieto, lasciamo spazio ancora un po' di musica o sentiamo... Ah no, partiamo subito con... dalla stessa parte, primo singolo del disco Jimbo e Silent Vein, registrato appunto agli Abbey Road Studios. Mannaggia, oh. Dai, Come il mondo non so difendermi, guardo i tuoi occhi mentre lascio che tutto cambi. No woman, no cry, mi dici amore mio, cos'è successo ieri? Sono tempi in cui il freddo che è addosso non risparmia nessuno, e sentirci liberi ma non per molto non è qualcosa di nuovo. Ma siamo qui così, io e te, stringendo ancora, così, io e te, senza l'idea, sempre così, io e te, stringendo ancora. Dici cosa sarà, nel silenzio che c'è attorno, c'era un'incognita nel cuore, che incolla tutto senza colore. Pensieri uniti solo a stento, parole inutili spesso accanto, conferme ce ne sono ovunque, quello che conta è stare qui con te. Sono tempi in cui il freddo che è addosso non risparmia nessuno, e sentirci liberi ma non per molto non è qualcosa di nuovo, ma siamo qui così io e te. Fuggimi ancora così io e te. Terza righe, sempre così io e te. Ma siamo qui, così, e te. Quindi questo era il primo singolo che abbiamo sentito questa sera da Jimbo, Steel and Vain. Siamo già partiti con il secondo, DJ Smash. Che cosa facciamo? Ah, era un... Se lo merita un rullo di tamburi questa puntata, perché è bellissima. È vero, anche delle esplosioni de faia von Babylon, ma solo positive faia, come dice uno dei nostri ennerrimi da plate. Siamo pronti per tornare live? Siamo pronti, se volete ascoltiamo un altro brano o se no abbiamo l'ospite. Non lo so, l'ospite che dice? Ascoltiamo un altro brano o abbiamo l'ospite? Dai, ascoltiamo un altro brano, ospite, che così facciamo almeno... creiamo un po', insomma, un po' di attesa, suspense, per forza. È giusto, la suspense. Ci andiamo a sentire... Jimbo e Sailed in Vain, secondo estratto, un messaggio. Dio lo smash! Giorno la mia rabbia, tradimento non vede ragione, contrapposta una fede che porta il mio odore, fiducia e guai vanno spesso d'accordo, ma il rischio che corre ed un tacito assenso, no, non voglio viverlo, no, così rifiuto il tuo arbitrio, ma piango il mio odio, sentirò dal cuore trafugata il mio onore, sentirai un messaggio che il cuore non sa più trattenere. Tradito, comprendi il mio stato, ma non farò il tuo gioco, no, voglio ricominciare credendo in un nuovo scopo e canterò per farmi sentire senza cadere per poi ripartire, non mento a me stesso, contesto il tuo conto, conosco tutto quello che voglio, ma adesso sentirò dal cuore trafugata il mio onore, sentirai un messaggio che il cuore non sa più trattenere. Thank you. fiata al mio onore. Sentirai un messaggio che il cuore non sa più trattenere. Sentirò un messaggio dal cuore trafugato al mio onore. Sentirai un messaggio che il cuore non può. Questo è un messaggio, il pezzo più roots di questo nuovo EP di Gibbo, Sealed and Vain, appunto registrato negli Abbey Road Studios. Avevo promesso anch'io un aneddoto su Francesco Puturti. Lo conosco da quando ancora andava a scuola, da quando ancora sognava di diventare uno dei fonici più gagliardi che ci abbiamo qua in zona. Andammo ad Amsterdam insieme. Per i 18 anni del nostro amico Ciccio, all'epoca bassista dei Massive Pulse, band dove anche Francesco suonava. Abbiamo fatto varie date insieme e poi appunto siamo andati ad Amsterdam e io ero giurato da Cannabis Cup. Che bei ricordi, fumosi ma bei ricordi. E allora ci siamo, no? Abbiamo detto che finalmente lo possiamo annunciare l'ospite a sorpresa. Lo facciamo annunciare a Gibbo, allora. Intanto lo facciamo partire, ci andiamo a sentire un altro pezzo live, addirittura con l'ospite a sorpresa. Che serata, regà. Dai. E allora, intanto una buonissima dose di rispetto va data a Otello Sierra, Pietro Smash, Pietro Osh e Smash, sorry for the passion and emotion, e a Gibbo, che giustamente mi fa presentare dalla musica ben sapendo che questa è occasione casuale ma usuale per me e mio fratello acquisito, del quale voglio dire solo una cosa: chi a un certo punto della vita fa una scelta intransigente verso la musica ha sole due possibilità: o diventa la caricatura di se stesso o diventa una persona magnifica. Credo che Gibbo appartenga alla seconda categoria. Io posso leggere il tuo sguardo e so che hai amato e hai combattuto come me. Lo so che pure tu hai inseguito a lungo il tuo traguardo. So anche che di sbagliare spesso capita anche a te. E se non ce la fai, io lo so che anche tu combatti per sopravvivere e meriti ogni spicciolo che hai, ma non ti arrendi mai e fai come me, come te Gibbo, per ogni sfida impossibile dai comunque il massimo che hai e vivi con la testa pulita anche se la vita non ti accontenta mai. Se stai con la coscienza pulita, prima o poi la vita rende tutto ciò che dai. Dai, dai, dai, dai, dai. E questa è dedicata a te che non servi ancora, conservi il tuo amore in mezzo a questo dolore, a te che non nascondi un errore perché gli cambi colore già per diventare migliore, ti circondi di amici e di pochi oggetti, prendi la vita com'è, coi suoi sgambetti ti accendi quando racconti dei tuoi progetti ed ammetti che hai meno pregi che difetti, e noi non siamo perfetti, no, siamo normali, amiamo le cose profonde, quelle banali, ci piace la pace e l'affetto degli animali, sentiamo di essere uguali, so che avete sogni grandissime, idee eccezionali e tutte le capacità fondamentali, che il coraggio non manca, si vive in mezzo ai maiali, il peggio si affronta e si ride dei propri mali, e con la testa pulita, anche se la vita non ti accontenta mai, se stai con la coscienza pulita, prima o poi la vita rende tutto ciò che dai. Gimbo Music, Capo Bianco e Keyei Ruffino, Otello, Brancaleone, Pietro Osce, Smash, la musica. Dico solo boh, che roba, raga. Grazie, bravi, Gian Pietro. Cazzarola, bravi, bravi. Esatto, damogli un po' di vai, vai, è così. Allora ci andiamo a sentire. Simo mi dice di dire che sono Capo Bianco. Sì, beh, no, malgrado lo dico, me lo sono. Lo dico anch'io. Grazie a Francesco Rufino, a.k.a. Capo Bianco, che è veramente un capo. Bianco, anche visto con le luci del Branca. Bianco, Capo Bianco, effettivamente è giusto. Veramente brividi, grazie. Cioè, grazie davvero. Grazie a Rufino, grazie a Gimbo. Grazie a tutti. E intanto ci andiamo a sentire Tutta la forza che c'è, e poi guidiamo con magari un'altra cantata live, così. Ma sì, dai, che non ce ne fai, non ce fai Erbis. Dai, Erbis poi lo volemo. Sapessi quante volte mi chiedo perché, se con un sorriso sarebbe meglio vivere il mondo, invece poi c'è sempre un perché, e ci basta poco per mettere in dubbio quello di buono che c'è. Ricordami chi sono, ricordati chi sei, se ancora c'è un sorriso tra noi. Ricordami chi sono, ricordati chi sei, perché ancora c'è un sorriso tra noi. Sapessi quante volte mi chiedo perché, se c'è un sorriso ripensa uno sbaglio, invece è tutta la forza che c'è. C'è un sorriso tra noi. Ricordami chi sono, ricordati chi sei, perché ancora c'è un sorriso tra noi. Sono che ancora c'è un sorriso tra noi. E ancora solo applausi che non sentite live, perché appunto questa era la prova zero, quindi ce l'abbiamo ancora dalle fiction degli anni 80 più o meno. Manca solo quella. Ringraziamo Rufino, ringraziamo Jimbo. Ringraziamoci tutti, perché siamo qui, abbiamo fatto una bella serata insieme, siamo stati bene insieme. Applausi, il senso... veri, applausi veri. Applausi. Speriamo di non aver schioppato le orecchie alle nostre, ai nostri ascoltatori. E quindi che facciamo? Proponilo. Propongo un pezzo con Capo Bianco, visto che non... Vabbè, Rufino detto Capo... Ah, mezzo Rufino, mezzo Capo Bianco. Faccio un pezzo. Diciamo che allora lo introduco io, facendo anche, insomma, una citazione che ci sta, perché se stiamo qui tutti quanti credo che lo dobbiamo solo a una persona nella storia, che è Bob Marley. Yes! Woman, northern heaven cry, cause her son had been shot down in the streets and die from the stray bullet. Woman, northern heaven cry, it's plain into her was a passerby who saw a woman cry. Yeah, she cried. Mm-hmm. Mm-hmm. Johnny was a good man, yeah. Ah, Johnny was a good man. Già sai com'è, che un passo dopo l'altro hai camminato molto. Il mondo non t'ha dato ancora quello che t'ha tolto. Un giorno dopo l'altro hai amato e combattuto, e ti sei preso quello che t'era dovuto. A te che non ti sei mai arreso per ogni pugno preso, addosso è un segno di cui sei orgoglioso. Dico, non cedere mai, ce l'hai fatta oramai. Ringraziano per uno le persone che mo stanno qui. Già lo sai com'è che va. Rime improvvisate, sai che vanno così. C'è il suono di città. Non faccio niente che non viene bene con le persone a cui voglio più bene. Adesso sai che ti conviene. Sempre le stesse scene. C'è musica nell'aria stasera, lo sai che la facciamo un po' così, però non c'è problema, è roba vera. Ma c'è Rufino e Jimbo e non è un film, lo sai che va così. Franca Leone, Rufino Capobianco, Jump, Jim, Hotel, Smash, Osh, Reggae Music. Ci abbiamo messo un po' per riprenderci dall'emozione, no? Di questo primo live qua al Brancaleone. Grazie Capo Bianco, grazie Jimbo, Grazie a tutti quanti, ribadisco perché forse prima si sentiva poco. Grazie Capo Bianco, grazie Gimbo. Grazie a voi, Branca, grazie a tutti.